Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione che cerca di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cercare di cambiare la politica con la rete. Quella di oggi è una puntata speciale perché, oltre al punto di Stefano Folli, che faremo tra poco, su una serie di argomenti importanti, come sapete la settimana è stata densissima perché ci sono state le elezioni in Sicilia, c'è stato la caduta, se vogliamo, dell'Italia dei Valori, tutti i problemi di Antonio Di Pietro e anche il ritorno, dopo essere andato via, di Berlusconi sulla scena. Parleremo di elezioni americane, vedremo di mettere un punto su questa campagna elettorale che si va concludendo. Vi ricordo tra l'altro che dedicheremo un lungo speciale qua su Radio 24 nella notte elettorale dalle 22 alle 6 e poi successivamente proprio per commentare le elezioni americane. Vi do qualche numero per darvi un'idea su cosa si confronta in rete, anche se il quadro non è solamente questo. La pagina Facebook di Obama ha 31 milioni di like, 31 milioni di mi piace, quella di Romney ne ha 10 milioni. Questo il quadro per quanto riguarda Facebook. Per quanto riguarda anche altri social network come Twitter, 21,2 milioni followers di Obama, 1,5 milioni quelli di Romney, ma insomma questi sono numeri che, a dir la verità, non dicono tantissimo. Vogliamo cercare di capire quanto poi alla fine i social network, la rete, avranno davvero un impatto e se ce l'avranno sulle elezioni americane. Io vi ricordo i nostri contatti: vota Antonio R24 è l'account Twitter, oppure c'è il mio, Simone Spetia. Siamo anche su Facebook, vota Antonio R24, anche qua si chiama nello stesso modo, potete scriverci votaantonio@radio24.it e poi trovate aggiornamenti e dettagli sulla nostra pagina www.radio24.it. Questo il quadro, questo quello di cui parleremo nella giornata di oggi, quindi scarso spazio per il nostro sommario. Ci ritroviamo tra poco con il punto di Stefano Folli. Italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci in questa seconda parte della trasmissione che, come sempre, cerchiamo di dare un quadro politico della settimana, una settimana terribilmente intensa, piena di cose, che si è aperta con le elezioni in Sicilia. A voler essere precisi, e partendo da sabato, si è aperta con la conferenza stampa di Silvio Berlusconi, della quale tanto si è parlato. Poi ci sono state le elezioni in Sicilia, con quello che da alcuni è stato definito un terremoto, i problemi all'interno dell'Italia dei Valori, e nel frattempo si lavora in Parlamento sulla legge di stabilità con alcune modifiche che ci sono. Ci sono le vostre mail che potete scrivere a il.@radio24.it, perché questo è il momento nel quale parliamo con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Andiamo in ordine cronologico e ti chiederei di iniziare dall'Italia dei Valori, dai problemi dell'Italia dei Valori, messa in crisi da tante cose in realtà, anche da scelte discutibili di parlamentari portati alla Camera, insomma, ne ricordiamo uno per tutti sul quale molto si è scherzato, che è appunto Domenico Scilipoti, non solo, anche Antonio Razzi, insomma ce ne sono una serie, e poi dalla trasmissione Report che ha picchiato molto duro, però sembra essersi rinsaldato il legame con Grillo, Stefano. No, ma non è così, è che vedi, Di Pietro ha avuto la sua stagione, è durata più o meno come quella di Berlusconi, c'è stata una certa, un guardarsi allo specchio fra i due nemici. Però questa stagione si è esaurita, come si è esaurita questa speranza di questa effimera e pasticciata seconda Repubblica. Non è che Grillo e Di Pietro adesso fanno un'alleanza, semplicemente che Grillo pensa di annettersi l'elettorato dell'Italia dei Valori, o almeno buona parte di esso. E questo è il senso di questa offerta a Di Pietro di andare al Quirinale. È un'offerta che a Grillo non costa nulla, ma che serve per dimostrare che è lui, Grillo, il vero erede di questo mondo che nella seconda repubblica, chiamiamola così, si è riconosciuto in Di Pietro e che adesso non sa più dove andare, perché quella stagione è finita. È molto interessante quello che dicevi, tra l'altro ne hai scritto in settimana sul Sole 24 Ore, questo parallelismo tra la fine, la caduta di Silvio Berlusconi e quella di Antonio Di Pietro, insomma, appunto due personaggi speculari. Sì, no? Perché speculari, mentre invece Grillo è un'altra cosa. Grillo è oltre Berlusconi. Grillo infatti nasce, non a caso, come fenomeno politico, nel momento in cui si esaurisce la parabola di Berlusconi. Quindi lui è qualcosa che va oltre, è già proiettato in una dimensione che è diversa da quella che conosciamo, che non possiamo sapere quale sarà, magari sarà un disastro, però è qualcosa di diverso da oggi. Mentre Di Pietro è davvero un personaggio che ha rappresentato vizi e virtù del nostro paese, anche con l'idea di mettere insieme una classe dirigente che naturalmente non aveva nel suo partito, in questi anni che sono stati gli anni di Berlusconi. Ecco, hai parlato di Grillo e dunque veniamo alle elezioni in Sicilia, perché ancora una volta là si è dimostrato, probabilmente dovuto anche, anzi quasi certamente dovuto all'altissimo astensionismo, si è dimostrata la forza elettorale del movimento di Grillo, con Grillo stesso che inizia anche a parlare un po' più da leader politico, insomma è sembrato ammorbidire anche i toni nei giorni scorsi, insomma inizia a capire che forse lui stesso inizia a capire che c'è qualcosa di più serio. Sì, lui naturalmente è il prodotto di questa crisi dei partiti, si rende conto di essere un'alternativa all'astensione, come è avvenuto in Sicilia. Se non ci fosse stato Grillo l'astensione sarebbe stata, non so, il 65-70%. Però si rende anche conto che deve cercare di modulare il suo linguaggio a seconda anche delle aree del paese. L'uomo è un populista naturalmente, però riesce a dimostrare di conoscere alcune regole fondamentali della comunicazione politica. Da questo a dire che lui sarà un protagonista in positivo della prossima fase, della prossima legislatura, ce ne corre. Però indubbiamente il personaggio è interessante e non può essere demonizzato con delle formule di facile uso. Sicuramente un protagonista, appunto, non è detto che lo sia in positivo o in negativo. Non lo possiamo sapere oggi. Però sicuramente un protagonista. Ci scrive un ascoltatore, ci scrive Renato a il.@radio24.it, una lunga email che mi sembra anche cogliere nel punto di tutto quello di cui abbiamo parlato, insomma anche dei motivi per i quali la gente finisce per votare Grillo, e parla di tutto quello che è stato inattuato, per esempio dal lato dei costi della politica, ma non solo, delle privatizzazioni, anche della diminuzione dei parlamentari e dei senatori, insomma tanto se ne è parlato, da quel lato non se ne è fatto niente. Ma guarda, è così, insomma questa è una responsabilità gravissima che hanno le forze politiche, veramente drammatica, perché quel poco che si è fatto in termini di risparmi, di razionalizzazione delle spese e quant'altro, lo ha fatto il governo cosiddetto tecnico in questo ultimo anno, quindi in qualche modo quella che era un'eccezione rispetto alla normale dialettica politica, ma dai partiti non solo non è venuto nulla, ma proprio nulla, ma è venuto anche il freno e gli ostacoli posti a qualunque progetto di riforma che comportasse risparmi consistenti di spesa, e questo è qualcosa che gli elettori hanno visto, che si sono segnati, diciamo, nella loro agenda personale e che stanno facendo pagare già adesso ai partiti. In Sicilia abbiamo detto, non dimentichiamo che tra pochissimo si voterà in Lombardia e nel Lazio dopo un'ondata di scandali vergognosi, e vedremo quale sarà la risposta dell'elettorato. A proposito di partiti e di come si stanno muovendo sulla scena in queste ore, c'è la legge di stabilità, insomma, gli emendamenti, come sempre a dir la verità, come sempre succede in questa legge che, lo ricordiamo, ha sostituito la finanziaria, e quindi è un classico che il numero di emendamenti, ossia di richieste di modifica da parte dei parlamentari, sia molto alta, insomma siamo, se non erro, oltre i 1500, 890 della sola maggioranza, e tra l'altro con un impianto che dal lato fiscale, Stefano, sta cambiando radicalmente, insomma salta L'IRPEF, salta il taglio dell'IRPEF, si modifica per quanto riguarda l'IVA, arriva probabilmente un taglio del cuneo fiscale. Insomma, che impatto può avere tutto questo sul governo? Perché il governo aveva presentato un'altra manovra. Vale un po' il discorso di prima, dai partiti viene sempre questo remare contro, sembra che remino contro. Naturalmente siamo in campagna elettorale, adesso noi stiamo vivendo una lunghissima campagna elettorale che è già cominciata e che finirà, non sappiamo esattamente quando, ma insomma finirà nella primavera del 2013. Allora il comportamento dei partiti è sempre lo stesso, il tentativo di addolcire la pillola. Questo non significa avere un'idea alternativa dello sviluppo, della crescita economica, significa semplicemente badare un po' al proprio elettorato, alle proprie clientele, il contrario dell'interesse generale. Questo è molto grave. Naturalmente si può pensare che il governo poteva dire di no a tutto, porre la fiducia. Se l'avesse fatto si sarebbe gridato a un governo che chiudeva la bocca al Parlamento su una legge fondamentale come la legge di stabilità, quindi si è lasciato fare, si è lasciato che gli emendamenti venissero presentati, si è aperta la discussione e naturalmente questo è il risultato. Ancora una volta si dimostra, salvo eccezioni, ma sostanzialmente si dimostra che i partiti non riescono a rappresentare una sintesi credibile dell'interesse generale. A proposito di partiti, veniamo al PDL, perché come si diceva, se vogliamo vederla da come si è aperta la settimana per noi, insomma, Voto Antonio, lo sentite, va in onda la mattina dalle 9 alle 10, la mattina del sabato dalle 9 alle 10, insomma c'è stato nel fine settimana questa conferenza stampa esplosiva, così possiamo dire, di Silvio Berlusconi. Sembrava che se ne fosse andato, avesse lasciato tutto, invece torna in campo, seppur non da candidato presidente del Consiglio, e all'interno del PDL si riaprono completamente i giochi. Ma guarda, noi stiamo assistendo al tramonto politico di Berlusconi, soltanto che questo tramonto non è che avviene come fosse, capito, l'ultima scena di un film, avviene tra scossoni continui, tra passi avanti e passi indietro. Un tramonto da Nord Europa, diciamo così, insomma, quindi molto lento. Sì, lento e pieno di scossoni, a cui fa riscontro una mancanza, diciamo, di un'alternativa all'interno di quel mondo. Non c'è un'alternativa visibile, credibile, tant'è che devono ricorrere le primarie per cercare una certa legittimazione. E quindi noi stiamo vedendo che c'è una grande area politica che Berlusconi ha dominato con la sua personalità per tanti anni, che oggi è completamente destabilizzata. Difficile credere che questa situazione possa modificarsi meglio in tempi brevi. Ci scrive un ascoltatore e con questo chiudiamo, così andiamo anche a dare un'occhiata al lato Partito Democratico. Ci scrive Fabio: ho sempre votato a destra, ma non esiste più la destra. Voterò Renzi, ad oggi è la più destra che c'è. Insomma, questo è anche un po' un luogo comune che gira sul sindaco di Firenze, no? Sì, è un luogo comune. Io penso che adesso anche Renzi dovrà misurare la sua carriera politica dopo le primarie del Partito Democratico. Io non so se le vincerà. Io penso che Bersani continui a essere piuttosto forte come candidato e rimane secondo me il favorito per le primarie del Partito Democratico. Renzi però farebbe un errore a lasciare il partito dopo e a mettersi lui alla testa, diciamo, di un movimento di centrodestra. Penso che sarebbe meglio che continuasse a fare, magari anche fare il sindaco di Firenze, che non sarebbe male, che mi sembra che in questi mesi non abbia fatto, ma soprattutto cercare di rappresentare una sinistra più moderna che ingloba anche elementi che vengono dal centrodestra, come fece Tony Blair in Inghilterra, che prese dalla crisi della signora Thatcher, prese alcuni elementi e li portò nel Partito Laburista rinnovandolo. Io penso che questo debba fare Renzi, però naturalmente senza altri strappi, perché questo è un paese che di strappi veramente sta morendo. Grazie anche per questa settimana a Stefano Folli. Io grazie, vi ricordo, a te, ciao. Ciao Stefano, vi ricordo ancora che potete scrivere a ilpuntoetradio24.it per porre le vostre domande a Stefano Folli. Noi ci ritroviamo tra poco e, come probabilmente avrete sentito annunciato, parleremo di elezioni americane e, insomma, in una puntata, la seconda parte della trasmissione sarà dedicata esclusivamente a questo, proprio per, appunto, fare il punto su questa campagna elettorale dal lato di internet e dei social media. A tra poco. Italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. This January night, at this defining moment in history. You have done what the cynics said we couldn't do. Ed è Barack Obama, un video che insomma possiamo considerare in qualche misura la chiusura di un cerchio, almeno così è stato selezionato da Filippo Sensi. Buonasera Filippo, buongiorno, anzi buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo un po' spostati sull'orario americano, quindi a volte ci capita di confonderci. Già ospite da noi altre volte, vice direttore di Europa, blogger, lo conoscete come NomFoop. Video che chiude un cerchio perché è il video da Des Moines, dove nell'Iowa, dove Obama ha deciso di chiudere questa campagna elettorale, ed è il luogo che di fatto lo ha incoronato candidato presidente nel 2008, con una risposta però da parte dello sfidante. Mitt Romney offers a fresh economic vision. With those words, the Des Moines Register makes history, endorsing Mitt Romney for president. It's the paper's first endorsement of a Republican in 40 years. Mitt Romney's earned the support of every major newspaper in Iowa. A strong record of achievement in both the private and public sectors. Voters should give Mitt Romney a chance. E questa è la risposta di Mitt Romney, che fa sapere che per la prima volta il quotidiano di Des Moines ha in realtà dato l'endorsement a un candidato repubblicano. Quindi avete capito, parliamo di elezioni americane e lo facciamo per tutto il resto della trasmissione. Siamo quasi in chiusura di campagna elettorale. Abbiamo iniziato con questi due audio. Saluto intanto Luigi Curini, che insegna all'Università di Milano ed è tra gli animatori e fondatori del progetto Voices from the Blogs, multidisciplinare tra l'altro, scienza politica, teoria dei giochi, mille cose, non stiamo qua a dire. Luigi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. E saluto anche Riccardo Puglisi, lo conoscete, insomma nemmeno ve lo devo presentare, insomma insegna economia all'Università di Pavia, ci aiuta con i numeri, questa volta non ne ha propriamente elaborati dei suoi, però ci accompagnerà anche in questa puntata dedicata alle elezioni americane. Filippo Sensi, ve l'ho già presentato, cerchiamo di capire una cosa difficile da capire, perché siamo probabilmente di fronte a qualcosa di nuovo, perché i social media, internet, non sono mai entrati così a fondo in una campagna elettorale. E allora non si può dire effettivamente ancora se avranno un impatto vero sul voto, finché non avremo il voto sotto mano, e anche l'analisi naturalmente sarà difficile. Però cercheremo di esaminare qualche tendenza da questo lato. Innanzitutto voglio sapere da Luigi Curini che cosa fate voi. È un progetto dell'Università Statale di Milano. Io l'ho letto, però lo voglio far spiegare a te, perché secondo me è un progetto bellissimo. Innanzitutto grazie dell'invito. Voices from the Blog nasce nell'ottobre del 2010 come osservatorio sui social media da parte dell'Università degli Studi di Milano e su iniziativa di tre persone. Stefano Iacus, che è il matematico statistico, Giuseppe Porro, che è l'economista, e io come politologo, a cui si è aggiunto 6-7 mesi fa un altro politologo, Andrea Ceron. Quello che fondamentalmente facciamo è analizzare, sentire più che analizzare, quello che gli utenti della rete dicono sui più vari argomenti. Argomenti che appunto possono essere di costume, sociali, economici, ma anche politici. In questo senso abbiamo seguito ad esempio le elezioni comunali, le passate elezioni comunali a Milano, le recenti elezioni politiche sia legislative che presidenziali in Francia, e stiamo seguendo anche le elezioni presidenziali. Questo mi sembra un elemento importante, perché spesso in questa trasmissione vi abbiamo raccontato di come i politici approcciano la rete. Questo è il tema di come la rete approccia la politica, che forse è ancora più importante. Allora, dici che cosa avete trovato, che cosa state trovando in queste ore. Insomma, dici chi vince le elezioni. Beh, questo è un po' difficile, anche perché quello che facciamo è analizzare il sentimento della rete. Non necessariamente il sentimento della rete si trasforma necessariamente in un reale comportamento di voto. Quello che però possiamo osservare è alcuni come in particolare come eventi che accadono durante la campagna elettorale hanno un impatto sul sentimento che si registra nella rete nei confronti dei due candidati. Ad esempio, qual è stato l'impatto del primo dibattito? Quello che noi osservavamo è che nel periodo precedente al primo dibattito, come si registrava anche nei sondaggi tradizionali, il sentimento pro Obama in rete, in particolare su Twitter, era chiaramente superiore a quello su Romney. Il primo dibattito in questo senso è un primo, se vogliamo, un primo break strutturale nella campagna elettorale americana, che avviene abbastanza recentemente, cioè abbastanza vicino al giorno delle elezioni, e da quel momento quello che assistiamo è un avvicinamento molto forte tra i due contendenti, che se vogliamo è una novità, perché le elezioni del 2008 sono state le prime elezioni presidenziali americane in cui uno dei due candidati ha utilizzato in modo massiccio i social media, Facebook e via dicendo, per l'appunto Obama. Quello che è emerso è che nel 2012 i repubblicani in qualche modo hanno imparato la lezione, e questo è già un primo aspetto sicuramente molto interessante della nostra analisi dei nostri risultati. Questo è un primo quadro, poi torneremo su questi temi, perché poi quello che ci interessa anche approfondire qua e cercare di capire è quanto poi tutto questo abbia un impatto effettivo sull'elettorato, insomma, quanto poi quello che vediamo in rete muova veramente qualcosa. Allora, con Filippo Sensi, e poi verremo a Riccardo Puglisi, che lascio per ultimo perché è uno di casa, insomma, ormai qua, e quindi appunto da questo lato lo teniamo per ultimo. Innanzitutto, Filippo, io ti devo chiedere, perché quando ci siamo parlati ti ho detto, insomma, Sceglimi qualcosa di evocativo da questa campagna elettorale, e mi hai dato questi due video. È un po' quello che dicevi te, la circolarità del video di Obama e anche della risposta spiazzante di Romney, cioè Obama chiude in Iowa, dove tutto era iniziato, dove tutto era cominciato, dove aveva sconfitto Hillary Clinton e aveva lanciato quindi la sua corsa per la presidenza nel 2008, e siccome il presidente e la sua squadra hanno ben presente questa idea della narrazione, cioè della narrativa, di una metrica da dare all'elettorato, quindi di un racconto che si dispiega anche lungo gli anni, e da dove si cominciava bisognava finire. Ed non è un caso che sia entrato Romney a gamba tesa su questa, diciamo, su questo nostos del presidente, ricordando l'endorsement di un giornale importante come il Des Moines Register, come a dire: vabbè, tu celebri e festeggi i tuoi 4 anni di presidenza, ma sappi che nella terra in cui morde la crisi economica i giornali hanno scelto me. Quindi insomma, questa circolarità interrotta mi sembrava una chiave interessante per leggere questo scorcio di ore fino al voto. Al voto. Filippo, quanto di questa metrica e di questa narrativa, come l'hai chiamato tu, Obama è riuscito a trasferire in rete? Guarda, in rete la sua squadra ha lavorato molto bene. Quando noi parliamo di social network, adesso un po' per una sorta di magnetismo, anche per quello che succede in Italia, pensiamo a Twitter, pensiamo a Facebook, ma non dobbiamo dimenticare anche YouTube, che è uno straordinario luogo di palinsesti personali, e dove la campagna di Obama scarica mediamente ogni giorno tra i 4, 5, 6 video, dove ci sono volontari, dove ci sono stelle che danno il loro endorsement, dove ci sono brani di discorsi di Obama o di Michelle o di Joe Biden, eccetera. Cioè, a dire, lo sforzo è stato consistente e con una ottima, a mio modo di vedere, capacità di penetrazione. Ovviamente siamo un po' alla domanda delle domande, quella che pone di te, cioè quanto poi di questo sforzo della rete arrivi, buchi nel consenso degli elettori americani in un paese in cui la crisi picchia duro, beh, questo è da vedere. Riccardo Puglisi, mi sembra che qua continui ad emergere appunto la difficoltà di, come dire, di valutare il peso di tutto questo sul voto americano. Sono d'accordo, l'idea fondamentale è che attraverso uno strumento come i social network, come Twitter in particolare, si riesce a avere istantanee, rapide, una sequenza di istantanee su qual è il sentimento, quali sono le opinioni, quali sono gli argomenti di cui si parla in un certo momento. La questione fondamentale è una questione statistica, che è la questione della rappresentatività. Capire quanto quello che viene detto, per esempio, su Twitter è un discorso dell'elite oppure è un discorso dei cittadini. Da questo punto di vista mi sembra che la cosa fondamentale da notare per un italiano che guarda le elezioni americane è questo, che Twitter, i social network sono arrivati prima in America, banalmente per definizione sono arrivati prima, gli Stati Uniti sono più grandi perché gli Stati Uniti sono all'incirca 5 volte come popolazione d'Italia, ma il ragionamento che fanno molti è che la penetrazione di Twitter e di Facebook, ma specialmente di Twitter, è molto maggiore negli Stati Uniti che in Italia. Quindi se io devo pensare a questo discorso di quanto sia rappresentativo quello che succede sulla rete rispetto a quanto pensa il paese, il ragionamento che secondo me bisogna fare è il seguente, che la rappresentatività è maggiore negli Stati Uniti, assolutamente. Uno può anche vedere, anche dando dei numeri sempliciotti sulle menzioni dei candidati, ad esempio dopo i dibattiti, dopo il primo dibattito, ad esempio Romney è stato menzionato 8 milioni di volte. La settimana scorsa parlavamo della battuta malaugurata del ministro Fornero con l'espressione Ciusi, il numero di tweet in cui veniva nominata questa cosa, non siamo ancora in campagna elettorale, va bene, facciamo tutti i caveat del mondo, però i tweet al giorno erano 8.000. Quindi c'è una grossa differenza di ordine di grandezza di cui dobbiamo tenere presente e che ci fa pensare che forse negli Stati Uniti si riesce a prevedere meglio, anche se non è l'unico strumento per prevedere quello che succederà nelle elezioni. C'è una vicenda interessante che si è diffusa nei mesi scorsi, una ricerca che è stata pubblicata su Nature dell'Università della California, che racconta come un messaggio postato su Facebook per le elezioni di midterm nel 2010 e che incitava ad andare al voto ha generato un incremento di votanti di 340.000. Cosa succede? Succede che Facebook sta pensando, a quanto pare, queste sono indiscrezioni, ad una massiccia campagna per spingere gli americani ad andare a votare. È evidentemente un favore al presidente. Questa però è la dimostrazione, probabilmente la ricerca dell'Università della California, che evidentemente c'è una forma, in questo caso non bottom up ma top down, come dite voi, quindi dall'alto verso il basso, Luigi Curini, che funziona. Sì, diciamo che questo tipo di analisi, controllare l'effettiva efficacia di questo tipo di campagna sul reale comportamento di voto, è comunque sempre aperta, diciamo così, alla discussione, perché non è benissimo, non è sempre chiarissimo la modalità attraverso cui poter controllare questo tipo di risultati. Sicuramente, venendo alle elezioni del 2012, un aumento del numero di persone che andranno a votare potrebbe incidere in modo significativo sul risultato finale, e tendenzialmente, guardando le analisi, dovrebbero favorire Obama, anche perché tra le persone che al momento sono quelle che hanno più probabilità di andare a votare, al momento tra queste persone sui sondaggi che ho letto il favorito è Romney. Il vero problema è cercare di recuperare quella fascia di popolazione che aveva votato in modo era andata a votare forse per la prima volta in modo massiccio nel 2008 per Obama, e cercare di riportarla a votare. Quindi in questo senso forse questo tipo di strategia adottata da Facebook potrebbe avere appunto un forte impatto sull'esito finale. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pausa per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e riprendiamo il discorso partendo anche da altri metodi di coinvolgimento che non sono solamente i social network, ma l'utilizzo della rete in genere. Ne hanno fatto un uso potente sia il candidato repubblicano che il presidente. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Dunque, Dunque, riprendiamo il discorso sulle elezioni americane in questa puntata della trasmissione praticamente interamente dedicata a questo, fatto salvo il punto di Stefano Folli che avete sentito poco fa, e lo facciamo, riprendo il discorso con Filippo Sensi. Filippo, tu mi hai parlato, allora abbiamo raccontato già in passato di questa vicenda del cosiddetto data mining, cioè che cosa ha fatto lo staff di Romney, è andato a cercare, possiamo chiamarle cellule dormienti repubblicane in grado di fornire denaro al candidato, cioè potenziali ricchi repubblicani che non hanno mai donato e non si sono mai impegnati attivamente da questo lato. Obama ha fatto qualcosa di diverso, possiamo dire così, dal lato della partecipazione, insomma. C'è questa dashboard, insomma, mi spieghi che cos'è? Ah, la dashboard è la lavagna, è uno strumento che la campagna di Obama ha messo a disposizione dei militanti e dei volontari che collaborano allo sforzo cosiddetto GOTV, cioè Get Out the Vote, cioè per mobilitare le persone e portarle alle urne. E di che cosa si tratta? Si tratta in sostanza di una interfaccia alla quale possono avere accesso i volontari della campagna, e sapendo, grazie alla geolocalizzazione, sapendo in una certa via o in un certo quartiere chi ha già votato, chi si è espresso a favore, chi ha organizzato degli eventi per la campagna, o al contrario chi vota repubblicano, insomma una serie di informazioni sensibili che rendono molto più efficace ed efficiente lo sforzo GOTV, cioè lo sforzo di andare a bussare il porta a porta, quello tradizionale, per andare a portare volantini oppure a spiegare quali sono le proposte del presidente, quali le minacce se vince l'avversario. Ora, è questo secondo me è il fronte più avanzato del rapporto tra rete e campagna elettorale, perché noi spesso pensiamo alla rete soltanto come, come dire, un push, cioè a dire una sollecitazione di messaggi, di comunicazione, di propaganda tradizionale. No, qui abbiamo adesso quello che nel gergo viene chiamato big data, cioè enormi quantità di informazioni a disposizione delle campagne elettorali, che a loro volta le mettono a disposizione dei loro militanti e volontari per ottimizzare il proprio lavoro di mobilitazione. Chiarissimo. Siamo per cercare di fare un discorso conclusivo e anche cercare anche di tirare le fila di tutto questo. A me sembra, questo è evidente, è che Luigi Curini, il punto è che questa volta i repubblicani sono entrati decisamente nella partita, naturalmente con numeri diversi, perché là si parte da un pregresso fortissimo. I numeri di Obama sui social e in rete sono pazzeschi, non fosse altro che perché è il presidente, ma anche perché ha già iniziato 4 anni fa e un pezzo della campagna elettorale l'ha condotto così. Detto ciò, i repubblicani stanno cercando comunque, hanno provato a rientrare in questo gioco. Con che risultati, secondo te? Ritornando al tipo di analisi che abbiamo fatto, l'aspetto interessante è se pensi a Obama, il profilo di Obama su Twitter ha qualcosa come quasi 22 milioni di followers, quello di Romney 1.6. Quindi sembrerebbe che questa distanza così forte tra i due candidati in qualche modo si rifletta anche nella discussione che si sviluppa su Twitter. Quello che in realtà emerge è che quello che forse ha fatto nel 2008 Obama è stato liberare il genio della bottiglia. Cioè, una volta liberato il genio della bottiglia, in altri termini, mostrare l'importanza dell'utilizzo dei social media per influenzare la campagna elettorale. Quello che in qualche modo è successo è che il social media che si è liberato ha acquistato vita propria. Quindi, indipendentemente dal tipo di approccio tentativo di controllarlo dall'alto, quello che è successo in tutti i vari social media, in particolare in quelli più interattivi come Twitter, quello che è successo è che semplicemente il numero di simpatizzanti, indipendenti, interessati in generale alla politica ha detto la sua. E dicendo la sua, il risultato è stato profondamente differente, in qualche modo anche sorprendente, nel senso che anche noi in qualche modo ci aspettavamo che analizzando l'umore della rete ci fosse questo forte bias a favore di Obama. Quello che è successo è che in realtà non è stato così, e non è stato così proprio perché i social media sono in grado oramai di agire in qualche modo, tra virgolette, per volontà propria. Chiarissimo. Tra l'altro, giusto per fare qualche numero, il 66% degli utilizzatori dei social media, questi sono i dati del Pew Research Center, che tra l'altro vi consigliamo di andare a visitare perché ha sempre qualcosa di interessante da questo lato, qualche ricerca stuzzicante, quantomeno che vi dà la misura, se vogliamo, anche della distanza, no? Che c'è tra l'America e noi su questi fronti. Il 66% degli utilizzatori dei social media ha utilizzato le piattaforme per esprimere idee e opinioni su questioni politiche o rispondere a post di altri su questi temi. Il 38% di coloro che usano i social network li ha usati per promuovere materiale relativo appunto a questioni politiche e sociali. Filippo Sensi, concordi con l'analisi di Curini? Sì, penso che sia proprio così. Penso che la metafora del genio della bottiglia sia calzante. Un po' era stato così, adesso parliamo di altre dimensioni, nel 2004 per la campagna di Howard Dean, no? Allora fu pionieristica in qualche modo l'interesse e questa squadra, questa crociata dei ragazzini che attorno a questo candidato un po' improbabile aveva inventato un altro modo per fare la campagna attraverso la rete. Nel 2008 è diventata il driver della vittoria di Obama e oggi è andata, come si dice in gergo, mainstream, cioè oggi i repubblicani hanno colmato quel gap, Obama possiede una macchina ben rodata e lo scontro è ancora lì. Se mi chiedi vince la TV o vince la rete nella capacità di, come dire, di creare consenso, io dico ancora la TV, per i numeri e anche per il, come dire, per il capitale simbolico che in un paese come l'America la TV, la televisione continua ad avere. Se però ragioniamo su quali sono le nuove dimensioni che la rete ha liberato per la campagna elettorale, facevamo prima l'esempio di dashboard, facevamo prima l'esempio dei social network, ma più in generale insomma la presenza del cittadino americano sulla rete, e questo ci dice che si è aggiunta una quarta dimensione ormai imprescindibile per capire chi andrà alla Casa Bianca. Che tra l'altro lo abbiamo raccontato nelle settimane scorse, in particolare alla luce del terzo dibattito tra Obama e Romney, ha anche il ruolo, se vogliamo, di andare a giocare sulla stessa televisione, no? Perché c'è questa sorta di circolo vizioso per cui si commenta sui social network quello che si vede nel dibattito, i giornalisti sono tutti sui social network, i giornalisti si convincono che il dibattito sia andato come l'hanno letto sui social network e a quel punto l'interpretazione diventa mainstream, no? Assolutamente, c'è un gioco di rispecchiamento, c'è il rischio appunto di suonarsela e cantarsela, ovviamente, cioè di un'enorme cassa di risonanza rispetto allo specifico televisivo. La verità, io credo, è che la buona televisione, la buona rete stanno trovando un modo virtuoso, a volte ci sono delle strozzature e dei colli di bottiglia, un modo virtuoso per coesistere, per rincorrersi e per come dire, trarre spunto e giovamento l'uno dall'altra. Per cui questo vale per noi, e lo vediamo in piccolo, visti i numeri che venivano citati prima, per la partita di calcio, il festival di Sanremo o chissà quale altra manifestazione di cui Twitter o Facebook o la rete diventa in qualche modo una nuova agora. Figurarsi negli Stati Uniti, dove i numeri sono quelli che dicevamo in precedenza e dove forse da un po' più di anni si è capito che stare bene in questo circolo virtuoso, cioè stare bene, saper surfare bene su questa onda, porta profitto e giovamento un po' a tutti. Dato non mio, e così andiamo a chiudere, un dato che mi ha fornito prima della trasmissione proprio Luigi Curini, è questo fatto che ai sondaggi risponde solamente il 10% degli americani interpellati. Riccardo Puglisi, così chiudiamo con te. Questo secondo te ci porterà alla fin fine, a un certo punto, a fare i sondaggi qua, sulla rete? E basta? Sta già succedendo, perché i sondaggi, questo è un dato rilevante, il problema è che i sondaggi tradizionali sono basati su interviste telefoniche che già hanno il problema di non far comparire quelli che hanno soltanto il cellulare, questo è un primo problema. Ci sono delle società americane che stanno sviluppando i sondaggi via internet, in cui sostanzialmente fruttano il fatto che ci sono persone che sono disposte a rispondere. Il fatto è che... se si riesce a capire bene come è un po' distorta la popolazione sulla rete rispetto alla popolazione in generale, allora è fatta. Perché? Perché c'è proprio un problema banalmente, beceramente di costi. Costa meno fare queste cose sulla rete. Quindi la mia predizione è che gli strumenti di sondaggio sulla rete, non dico che diventeranno l'unica cosa, ma diventeranno preponderanti. Grazie a Luigi Curini dell'Università Statale di Milano. Lo trovate anche su Voices from the Blogs. I link, tra l'altro, ve lo ricordiamo sempre, li trovate sul sito. Grazie a Riccardo Puglisi. Grazie a Filippo Sensi, vice direttore di Europa. Lo trovate anche su nomfup.wordpress.com. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto. Gli altri ringraziamenti, per carità, Carmelo Lauricella e Peter Bescapè per la parte tecnica, e appunto grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Vi ricordo ancora, vota Antonio R24 l'account Twitter, vota Antonio R24 la pagina Facebook. A me mi trovate su Twitter, Simone Spezia. Buona giornata.